Ogni giorno qualcosa. Abiti City Time, il look intelligente. Il Pool Sportivo, in collaborazione con il GR2, presenta Domenica Sport, seconda parte, a cura di Mario Giobbe. Conduce Paolo Carbone. Vi rinnovo il mio buon pomeriggio, sono le 17:34 minuti e 34 secondi in questo momento. Il Napoli è più vicino da oggi allo scudetto. Ha vinto alla grande a Bologna, 4-2, come sentirete fra poco nel tabellino dei risultati. Il Milan ha ceduto viceversa in zona Cesarini a Verona. Un Milan vittima anche di Lobello, che ha espulso Sacchi e 3 giocatori rossoneri. Secondo verdetto della classifica in Serie A. Dopo la retrocessione dell'Ascoli sancita domenica scorsa, da oggi c'è anche quella matematica della Cremonese, che ha perso a Bari. Ancora in pericolo sono il Verona, l'Udinese, la Fiorentina e il Cesena e quel Genoa che però deve recuperare una partita contro l'Inter. Un Genoa, lo ricordo, che ha perso oggi a Bergamo. 18 gol, 4 espulsi e 2 calci di rigore, entrambi sbagliati, vedremo dopo, hanno caratterizzato questa penultima giornata del massimo torneo calcistico, contraddistinta da questi esiti. Ad Ascoli, Lecce batte Ascoli 2-0, Atalanta batte Genoa 1-0, Bari batte Cremonese 2-0, a Bologna, Napoli batte Bologna 4-2, Verona batte Milan 2-1, Inter batte Fiorentina 2-0, Juventus e Roma 1-1, Lazio e Udinese 0-0, Sampdoria e Cesena 0-0. Per questa nuova classifica, Napoli 49 punti, Milan 47, Inter 43, Juventus 42, Sampdoria 41, Roma 40, Atalanta 35, Bologna 33, Bari e Lazio 31, Lecce 28, Genoa, Cesena e Fiorentina 26, Verona e Udinese 25, Cremonese 23, Ascoli 21. Come ho detto, Genoa e Inter devono recuperare una partita. In Serie B, 32esima giornata, ricordo la Serie C oggi non gioca, dicevo 32esima giornata in Serie Cadetta, la coppia di testa non ha una volta tanto rispettato il turno di calendario e quindi la cosiddetta media promozione. Il Torino infatti ha vinto in trasferta, prevale sul Pisa, che in casa si è fatto bloccare sul pareggio e quindi ha ceduto un punto alla Regina, rinvigorita evidentemente dal recente verdetto della CAF che le ha restituito lo 0-2 della partita di Parma. Una Regina che vede appunto rifiorire le speranze di promozione, così come rifioriscono quelle dell'Ancona che ha vinto a Catanzaro. Il Parma viceversa ha reagito molto bene al verdetto sfavorevole del supremo organo giudicante del calcio, vincendo a Trieste. In coda, consueta bagarre. Nei guai si trova anche il Padova, che non è lontano dalla zona pericolosa. Vediamo cosa è successo oggi. Avellino batte Como 1-0, Cagliari batte Padova 1-0, a Catanzaro Ancona batte Catanzaro 3-2, a Foggia Torino batte Foggia 1-0, Licata e Pescara 0-0, Messina batte Cosenza 1-0, Monza e Brescia 0-0, Pisa e Regina 0-0, Reggiana e Barletta 1-1, a Trieste Parma batte Triestina 2-0. Classifica: Torino 45 punti, Pisa 44, Cagliari 40, Pescara 37, Parma 36, Regina e Ancona 35, Reggiana 34, Foggia 33, Triestina 31, Messina e Avellino 30, Monza e Padova 29, Brescia 28, Barletta, Licata e Cosenza 27, Como 22, Catanzaro 21. A questo punto, come di consueto, linea ad Enrico Ameri che da Verona, dove ha assistito a Verona-Milan, si collegherà con gli spogliatoi di tutti gli altri campi della Serie A. Enrico, puoi andare. Benissimo, cominceremo naturalmente con Verona, seguirà Bologna, poi Milano, Bari, Genova, Ascoli, Roma, Bergamo e Torino. Io vorrei chiedere ai colleghi di essere un po' pazienti perché vorrei poter dilungarmi sulla partita Verona-Milan. Io penso che Nicoletta Grifoni si troverà in spogliatoi, che da una parte saranno spogliatoi bollenti, e mi auguro pertanto però che la collega sia in condizioni di potermi dare una mano nel cercare di analizzare le vicende di questa partita che, come vi ha detto Paolo Carbone, ha visto l'espulsione di Sacchi, poi di Rijkaard, di Van Basten e quindi di Costa Curta. È una partita questa condotta da Verona sul Milan e con la sua vittoria per 2-1 che in pratica ha contribuito a dare al 90% lo scudetto al Napoli. Ma per come si è svolta assolutamente nel secondo tempo, per gli episodi ai quali abbiamo assistito, merita senz'altro di essere sviscerata, di essere analizzata per bene. Nicoletta Grifoni? Sì, grazie Enrico. Ci troviamo di fronte agli spogliatoi da cui stanno uscendo, anzi fino a questo momento, a dire la verità, sono usciti soltanto dalla parte degli spogliatoi più tranquilli, che naturalmente sono quelli del Verona, mentre per quello che riguarda il Milan ancora non abbiamo visto alcuno. Devo dirti che fino a questo momento abbiamo avuto queste informazioni, cioè che le espulsioni che tu hai segnalato di Rijkaard, Van Basten e Costa Curta sono derivate da proteste di questi giocatori nei confronti dell'arbitro. In più si dice da parte milanista che ci sarebbe stato un sospetto fuorigioco per quello che riguarda l'azione che poi ha portato in gol il Verona, il gol della vittoria. Ai nostri microfoni abbiamo il protagonista, possiamo dirlo, di questa giornata, Osvaldo Bagnoli. Bagnoli, innanzitutto una sua valutazione su questa partita. Ma innanzitutto il protagonista non sono stato io, il protagonista sono stati i giocatori in campo e direi che sono stati dei grandi protagonisti, e direi noi siamo qua che gioiamo perché abbiamo ancora una possibilità, direi, di poterci salvare con questa vittoria qua. Però abbiamo tanto rispetto per un grande avversario che purtroppo qua a Verona lui si è giocato la sua parte di possibilità per vincere uno scudetto, per andare agli spareggi, e questo poteva succedere all'inverso, cioè loro a gioire e noi a piangere, perciò bisogna avere molto rispetto per questo grande avversario. Il calcio, mi scusi Bagnoli, è fatto anche di ricordi e di statistiche. Ora si dirà il Verona come 17 anni fa ha tolto la gioia al Milan. Sì, appunto per quello che ho detto, i protagonisti sono sempre quelli in campo e i meriti vanno a loro perché hanno fatto una grande gara e sono riusciti a ripetere quello che è già successo 17 anni fa, e ripetersi non è molto facile. Direi che abbiamo avuto i nostri momenti molto favorevoli, perché recuperare un gol, segnare a 3 minuti dalla fine, tutto questo può essere... Però, quando ha capito? Direi che la realtà è che questo gruppo di ragazzi è riuscito in una situazione molto difficile, più ancora di quella di 17 anni fa, a ripetere un qualche cosa che era già successo, e per questo grandi lodi a questo gruppo. Quando ha capito che il Verona oggi poteva vincere contro un Milan che non è apparso trascendentale fin dalle prime battute di gioco, dobbiamo dire? Ma guardi, io non sono un fatalista, però quando è entrato Gulli, a un certo punto dopo noi abbiamo pareggiato, io sulla panchina a Taspedini ho detto: guarda, di solito Gulli segnava e usciva, no? Il Milan vinceva, chissà che questa volta entra lui e il Milan perde. Se lei fosse stato al posto di Sacchi, l'avrebbe mandato in campo Gulli oggi in questa partita? Ci dica la verità. Certo che l'avrebbe mandato in campo, se il giudizio di Sacchi, dei medici, era di farlo giocare, io Gulli lo farei sempre giocare. La ringrazio, per il momento è tutto, ringraziamo Osvaldo Bagnoli, a te la linea, aspettiamo che escano dagli spogliatoi del Milan, Enrico. Sì, scusa Nicoletta, non considerare concluso il tuo lavoro per oggi per quanto riguarda gli spogliatoi, ritorneremo ancora da te, d'accordo? D'accordo. Ecco, trovare altri ospiti. Benissimo, passiamo alla partita di Bologna, dove il Napoli ha battuto Bologna per 4-2. Il Napoli ha saputo affrontare l'incontro con il Bologna con il piede giusto. Careca e Maradona sono i giocatori che sono messi subito in evidenza. Vantaggio è stato immediato, come abbiamo sentito in cronaca, e quindi è stata ipotecata la vittoria finale. Ottimo il Bologna della ripresa, ma ottimo anche il portiere Giuliani, che ha operato ottimi interventi. Sandro Ciotti. Ecco, è stato molto bravo Careca, è stato molto bravo Maradona, ma è stato molto bravo anche Crippa, che è stato sicuramente un protagonista di questo incontro. Abbiamo lui al microfono insieme a Gigi Maifredi, allenatore di Bologna, che si congeda praticamente con questa partita dal pubblico bolognese, che ti ha testimoniato un grandissimo affetto, mi è perso Gigi. Beh, è chiaro, dopo 3 anni non poteva essere altrimenti, ma questo affetto è ricambiato da me verso il pubblico, e direi che è stata una cosa bellissima, aver fatto 3 anni in questa città. Auguro a chi verrà al mio posto di fare 3 anni come me. Ti aspettavi comunque un Napoli così tonico, così disinvolto, soprattutto in apertura, perché poi successivamente la squadra di Bigone ha avuto delle pause provocate anche dal vostro forcing, dalla vostra determinazione, ma l'avvio è stato veramente esemplare, se vogliamo. Ma esemplare, diciamo che il Napoli ha messo in evidenza le caratteristiche proprie, cioè di avere 3 campioni lì davanti che sfruttano il lavoro fatto di interdizione da magnifici giocatori quali sono Crippa, De Napoli, Alemão e C. E l'hanno fatto da campioni, perché noi abbiamo preso 3 gol che potrebbero essere un esempio per chi vuol fare del calcio. Non abbiamo nulla da recriminare. Dopo abbiamo preso in mano la partita, abbiamo fatto anche delle ottime giocate, ci siamo direi riscattati almeno sotto il profilo del gioco, però era quasi impossibile recuperare 3 gol a questo Napoli in queste condizioni. Ecco, tuttavia sul 2-0 c'è stato un episodio contestato dai tuoi giocatori che ha avuto per protagonista il vittima Ilia nell'area di rigore napoletana. Ma contestato era, adesso è inutile dire guarderemo la moviola perché è un po' un luogo comune, era rigore nettissimo, non ci è stato dato, ma non importa. A questo punto stare a recriminare vorrebbe dire riaccendere delle polemiche vecchie e stucchevoli. Diciamo che il Napoli ha ampiamente dimostrato di essere la squadra in forma e noi siamo tranquilli per quello che abbiamo fatto in campo. Ecco, dal punto di vista tecnico è legittimo questo scudetto che va al Napoli al 90% perlomeno? Ma se teniamo conto che qualche tempo fa il Napoli aveva 5 punti di vantaggio sul Milan, mi sembra di sì. E dopo si è ravvivata la lotta perché il Milan ha fatto un grossissimo recupero, ma quando tutto sembrava volgere a favore dei rossoneri il Napoli ha recuperato il più grande giocatore del mondo e con lui tutta la squadra, e mi sembra che adesso stiano festeggiando uno scudetto che hanno in tasca. Ti ringrazio, vorrei far intervenire uno dei protagonisti di questa impresa, e cioè Crippa, come ho detto in apertura. Avete fatto nei primi 20 minuti abbiamo segnato 3 reti e direi che per il Bologna così non c'è stato niente da fare. Ecco, anche perché mi pare, Crippa, che il Bologna non abbia intuito tempestivamente la pericolosità che potevate rappresentare sia te che Corradini sulla fascia destra, vi sganciavate quasi sistematicamente e non mi è parso che gli avversari abbiano trovato la contromossa. Ma questo è vero, perché Corradini, anche se svolgeva il ruolo di libero, però usciva al momento giusto ed era l'uomo in più del nostro centrocampo, e così abbiamo messo in difficoltà subito all'inizio il Bologna, che dopo, verso la fine del primo tempo, ha preso in mano le redini del gioco, però credo che era già finita ormai la partita. Poi nel secondo tempo direi che abbiamo ancora tenuto molto bene il campo e abbiamo vinto alla grande con l'ultima rete di Alemão, che è stata spettacolare. Per quanto riguarda ad ogni modo questa conquista, che ormai al 90% va considerata realizzata, il presidente Ferlino la considera più sofferta di quella di qualche tempo fa? Prima cosa, non l'abbiamo ancora realizzata e quindi bisogna aspettare domenica prossima. C'è l'ultima giornata di campionato e quindi i giochi non sono ancora fatti. Certamente. Poi comunque è stato un buon campionato del Napoli, che si ripropone dopo aver vinto uno scudetto, dopo aver raggiunto dei secondi posti, e si ripropone anche quest'anno, si è proposta come protagonista, e questa è una cosa che ci fa molto molto molto piacere. Poi c'è stata, Presidente, mi pare un'inversione di tendenza rispetto alle abitudini della squadra nelle stagioni precedenti, quando si fletteva un pochino la formazione in occasione del rush conclusivo. Adesso invece il Napoli sta finendo in crescendo dal punto di vista anche della tonicità, della prestanza fisica, diciamo. Bisogna dire che questo è vero e questo ci fa enormemente piacere, perché questa primavera napoletana probabilmente ci ha sempre danneggiato, però il fatto che il campionato finisce un mese prima forse ha evitato la inoltrata primavera napoletana, sarà questa, non lo so che cos'è. Ad ogni modo mi pare che questa giornata di Bologna, per concludere, sia stata connotata anche dal rapporto, direi, idilliaco tra le due tifoserie, uno spettacolo piuttosto raro sui nostri campi. Sì, beh, ho visto, c'è un gemellaggio fra le due tifoserie, chiaramente una partita di calcio, quindi c'è stato combattimento, ma penso che siamo sempre nei limiti della correttezza, quindi tutto bene. È bene una vittoria del calcio quando tutto è bene. La ringrazio, così come ringrazio Maifredi e Crippa per i loro interventi, e restituisco la linea ad America. Io vorrei chiedere ancora a Ciotti qual è l'atmosfera nei spogliatoi del Napoli, se già si festeggia. Ma guarda, Enrico, ti dirò, c'è indubbiamente un'atmosfera molto festosa, di grande compiacimento, eccetera, ma senza quelle esplosioni clamorose che ci si poteva aspettare da una giornata con questi esiti. È una gioia così manifestata con molta sobrietà, se possiamo usare questa espressione. Bene, ti ringrazio per quest'ultima tua informazione. Passiamo ancora a Nicoletta Grifoni, di Salone di Spogliatoi di Verona. Pronto, Nicoletta? Sì, Enrico, siamo qua, ma ti devo avvertire che dagli spogliatoi del Milan non è ancora uscito nessuno. Abbiamo visto entrare Berlusconi di corsa, piuttosto scuro, ecco, in volto, ma non è uscito né Sacchi né gli altri giocatori. Ecco, senti, io ti inviterei eventualmente ad avvicinare Pellegrini, che mi sembra che sia stato, o Favero, mano a mano che usciranno, ecco, sicuramente. Mano che usciranno, certo. Pellegrini che ha segnato questo, certo, gol della, per il momento abbiamo visto soltanto Fritz uscire e ha detto che secondo lui questo è il più grande risultato del mondo. Benissimo, possiamo proseguire ancora nelle nostre interviste e passiamo naturalmente alla partita di Milano, dove la Fiorentina è completa e stanca, ha subito due reti e deve rimandare quindi il discorso salvezza domenica prossima. Emanuele Dotto. Sì, ho con me Marco Nappi, attaccante della Fiorentina. Allora, si diceva che per voi ci si giocherà tutto domenica con l'Atalanta. Che tipo di partita è stata questa di San Siro? Il successo dell'Inter mi sembra legittimo. Ma sì, legittimo, ha fatto veramente una grossissima partita, però noi l'avevamo contenuti molto bene anche se stavamo sull'1-0. Poi Bergomi così ha azzeccato quel tiro veramente formidabile che ci ha stroncato un pochettino le gambe. E niente, ora toccherà a noi domenica contro l'Atalanta e cercare il risultato positivo per poter salvarci. E poco fa, parlando quando non eravamo ancora collegati, lei mi sottolineava le qualità di Bremer, un grande giocatore ma anche uno sportivo. Ma penso proprio che Bremer oggi si sia comportato veramente con molta lealtà nei miei confronti, non è che mi ha piaccato, niente, c'è stato veramente un bel duello e corretto, che così deve essere nel calcio. E questo fa piacere sottolinearlo. Linea da Meri. La Cremonese, la seconda squadra, retrocedere in B. Bari non ha forzato, la formazione lombarda si è battuta bene, ma è stata poco concreta. E ascoltiamo Enzo Foglianese sulla partita di calcio Bari-Cremonese 2-0. Eccomi qua dalla sala stampa dello Stadio della Vittoria, c'è Tarcisio Burnic. Stavo appunto domandando, prima di entrare in collegamento, se questa partita Burnic non l'ha vista completamente chiusa sin dall'inizio, visto che poi il Bari combinava sul piano della concretezza molto di più. Ma certamente dover vincere a tutti i costi, ottenere i due punti per noi era estremamente difficile, però abbiamo cercato, abbiamo disputato una buona gara, solamente che andando in avanti abbiamo offerto il contropiede al Bari. Direi che è stata una buona partita, non posso dire niente della squadra, hanno giocato col cuore, non ci siamo riusciti, perciò dico che siamo contenti, c'è tanta amarezza, però bisogna essere soddisfatti di questa squadra perché in tutto il campionato ha dato il massimo delle proprie possibilità. Quando retrocede la Cremonese, è accaduto anche in passato, retrocede sempre con piena dignità e senza isterismi. Questo è un dato che dovremmo comunicare anche ad altre squadre che magari non sono nella stessa condizione psicologica e vivono la stessa disavventura. Ma io credo che la società e la stampa stessa ha educato in un certo modo la gente e questi sono i risultati. Grazie a Burnic, a te Ameri. Bene, adesso passeremo alla partita di Genova, poi cederemo ancora la linea a Nicoletta Di Frunini, perlomeno la richiameremo nuovamente. Prezioso punto salvezza per il Cesena, ricordiamo Sampdoria-Cesena 0-0, dicevo prezioso punto salvezza per il Cesena, la Sampdoria ha concluso imbattuta il suo campionato casalingo, la Sampdoria ha mancato un calcio di rigore e è stato annullato un gol al Cesena. Alfredo Provenzali. Bene, io sono negli spogliatoi assieme all'allenatore del Cesena, Marcello Lippi, lo ricordiamo per 20 anni circa, un'intera vita praticamente nella Sampdoria, è venuta a conquistare questo punto che può valere molto per la sua squadra sul campo della Sampdoria. Per quanto riguarda la Sampdoria, abbiamo ascoltato poco fa Boskov, ha detto che la sua squadra non è stata certo brillante come in altre occasioni, forse il pensiero già proiettato nella finale della Coppa delle Coppe a Göteborg o probabilmente anche la stanchezza della partita di mercoledì scorso. Veniamo al Cesena, il punto conquistato meritatamente su questo campo molto difficile, un punto che vuol dire molta speranza, vero Lippi? Sì, vuol dire molta speranza e dà ancora un'iniezione di fiducia per questa gara finale che abbiamo domenica prossima col Verona. Il punto è stato difficile da conquistare perché la Sampdoria ha provato fino al 90esimo con un calcio di rigore, con una punizione del limite al 90esimo, ha cercato di vincere in tutte le maniere. Noi siamo stati bravi, abbiamo lottato con tutte le nostre forze, con molta umiltà, come è necessario fare in questi finali di campionato, e domenica ci giochiamo tutte le carte contro il Verona. È una squadra del Cesena che mi pare che abbia proprio la mentalità adatta per riuscire ad ottenere il risultato che vuole, cioè la salvezza, molto concentrata, molto unita e sapendo fin dove può arrivare e dove non può osare di più. Esatto, è un ambiente nostro dove c'è la realtà delle proprie dimensioni, noi sappiamo che dobbiamo lottare fino all'ultima domenica, c'è molta umiltà e sappiamo che in questi finali di campionato con il cuore, con umiltà e lottando si riescono a fare dei risultati come per esempio noi ultimamente abbiamo preso punti con l'Inter, con la Juventus e con la stessa Sampdoria. Però questo non basta ancora, domenica c'è l'ultimo appuntamento, il più importante, con il Verona. In attesa dell'ultimo sforzo, ringraziamo Marcello Lippi e ti passiamo nuovamente la linea Meri. Bene, i Provenzali, allora Nicoletta Grifoni, la richiamiamo ancora dagli spogliatoi del Bentegodi. Sì, Enrico, siamo qua, probabilmente ci deve essere un ordine di scuderia per quello che riguarda il Milan, dal momento che stanno uscendo tutti i giocatori, al nostro invito a fermarsi alla nostra postazione rispondono no, non parliamo, quindi evidentemente hanno deciso poi di non commentare in diretto, almeno a botta calda, questo incontro. Invece abbiamo con noi gentilmente Pietro Fanna, protagonista anche lui di questa partita. Che effetto fa essere arbitro in campo di uno scudetto perso probabilmente? Ma guarda, a me dispiace per il Milan perché sono sempre stato tifoso dell'Inter, però è una squadra che come gioca il Milan che mi ha sempre dato grandi simpatie. Noi oggi abbiamo cercato di fare una partita un po' particolare, perché è l'ultima partita di campionato davanti al nostro pubblico. C'era una dedica particolare da fare e l'abbiamo esaudita molto volentieri. Quella Patrizia Tacchelli. Esatto, quindi mi auguro che si sia divertiti e che si sia divertito tutto il pubblico. Mi dispiace di nuovo per il Milan. Ma che cosa è accaduto, Fanna, secondo lei al Milan? A un certo punto abbiamo avuto l'impressione che abbia perso la testa. Sì, secondo me l'episodio che ha deciso un po' questa partita è stato quando il loro allenatore Sacchi è stato espulso, con questa protesta di un rigore che sicuramente non c'era, non perché voglio prendere parti così della nostra squadra. E qui insomma c'è stato un attimino di sbandamento nella squadra del Milan. Noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo creduto in un risultato positivo e poi ci sono stati questi episodi, queste espulsioni, diciamo dettate più che altro dal nervosismo, perché il Napoli stava vincendo, quindi al Milan il pareggio non bastava. E adesso la salvezza dopo aver battuto il Milan è necessaria, altrimenti sarà un'impresa andata a vuoto. Ma guarda, il nostro campionato, l'importante è che appunto che abbiamo dato un senso alle nostre sofferenze di tutto quest'anno, di questa annata particolare. Dovevamo lottarlo fino alla fine fino alla fine del campionato e così sarà, quindi andremo a Cesena convinti di fare in fondo il nostro dovere come abbiamo sempre fatto, e chissà che non ci scappi proprio l'ultimo momento una grande sorpresa. Grazie Fanna, telelinea Neri. Sì, Nicola, ti senti, se non hai adesso un personaggio eccellente da portare al microfono, e potrebbe essere anche un dirigente della formazione rossonera, io considererei chiuso eventualmente il collegamento con te, se tu poi non vuoi intervenire per altri motivi. D'accordo. Proverò a richiamarti ancora, comunque dopo l'intervista con Ascoli. Va bene? Va bene, d'accordo. Benissimo così. Il discorso salvezza si è chiuso anche per il Lecce, la squadra vincendo ad Ascoli per 2-0 ha raggiunto quota 28 e quindi non ha più preoccupazioni di sorta. Bruno Gentili. E infatti noi siamo qui con Paolo Benedetti, uno degli artefici di questa salvezza del Lecce. Una salvezza, Benedetti, conquistata con una giornata d'anticipo. Vi aspettavate di conquistarla così presto, diciamo, tra virgolette? Beh, no, ci speravamo, però eravamo coscienti di dover lottare fino all'ultima domenica. Ci è andata bene. Anche per gli altri risultati ci hanno dato una mano, quindi abbiamo raggiunto questa salvezza una domenica d'anticipo, siamo contentissimi. Ecco, un Lecce oggi che ha giocato con una certa aggressività ma anche con molto ordine. Ma io direi che siamo venuti qua soprattutto all'insegna della prudenza, era inutile andare a rischiare tutti avanti per vincere la partita senza testa. Siamo stati a controllare la partita cercando di colpire di rimessa e ci siamo riusciti in pieno. Ringraziamo Benedetti, la linea da Mary. Benissimo così, allora proviamo a ricollegarci ancora con Nicoletta Grifoni, forse non abbiamo fatto passare molto tempo, ma proviamo a sentire. Dunque Rico, qui la situazione è identica a prima, l'unica cosa è che Rijkaard si è fermato, è uscito dagli spogliatoi, si è fermato con una rete, noi pensavamo appunto che avesse rotto, diciamo così, quest'ordine di non parlare, in effetti invece abbiamo scoperto che era una rete olandese in lingua inglese, per cui nulla da fare. Ho capito, allora vogliamo considerare chiuso il collegamento? Io direi a questo punto di sì, aspettiamo che esca qualche dirigente ma non sappiamo dirti quando. Ecco, allora proprio in chiusura dei collegamenti ti chiamerò, va bene? D'accordo così, d'accordo. Benissimo, allora Atalanta batte Genova 1-0, un tempo per parte, ma l'Atalanta quando gli è toccato, il suo tempo naturalmente, ha segnato, il Genova no. Domenica Genova dovrà incontrare in casa l'Ascoli. Livio Forma. Eccomi qua con Emiliano Mondonico, una vittoria sofferta, anche se voi avete avuto un sacco di occasioni da gol, possiamo dire. Ma le nostre vittorie sono tutte sofferte, non potrebbe essere altrimenti, noi siamo una provinciale e tutto quanto otteniamo lo otteniamo esprimendo il massimo di quanto siamo capaci di esprimere, perciò è giusto che anche l'ultima gara in casa di fronte alla nostra gente sia stata una vittoria sofferta contro un Genova che chiaramente ci ha fatto soffrire il giusto, ma sapevamo già prima di cominciare. C'è stato un episodio contestato sul tiro di Collovati, la palla è andata nella mischia, Collovati ha reclamato fallo di mano, l'arbitro ha fatto proseguire. E ultimamente a Bergamo ci sono molti episodi contestati, noi abbiamo la buona abitudine di non contestare mai, perciò non vedo perché dovrei soffermarmi su questo episodio. E chiudiamo con Emiliano Mondonico per l'ultima volta sulla panchina dell'Atalanta. Questo non è detto, anche perché può darsi che si facciano ancora delle partite domenica.